Nelle parole che il signor di Charlieu mi diceva riguardo a Morel, c'era certo la prova di come l'amore, e quello del barone doveva essere ben persistente, renda, oltre che più fantasiosi e più suscettibili, più creduli e meno fieri. Ma quando Charlieu aggiungeva: "Quel ragazzo impazzisce per le donne, non pensa ad altro", era più nel vero di quanto non credesse. Lo diceva per amor proprio, per amore, per far credere agli altri che l'attaccamento di Morel per lui non fosse stato seguito da altri dello stesso genere. Io certo non ci credevo. Io che avevo visto, cosa che Charlieu non seppe mai, Morel concedere per 50 franchi una delle sue notti al principe di Guermantes. E se, vedendo passare il barone, eccettuati i giorni in cui, per bisogno di confessione, lo urtava per aver l'occasione di dirgli tristemente: "Oh, vi chiedo scusa, riconosco d'essermi comportato ignobilmente con voi", Morel, seduto con gli amici a un caffè, lanciava gridolini assieme a loro, segnava il barone a dito e lanciava le risatine con cui ci si burla ad un vecchio invertito. Io pensavo che lo facesse per nascondere il proprio gioco e che, preso a tu per tu dal barone, ciascuno di quei denunciatori pubblici avrebbe fatto tutto ciò che lui gli avesse chiesto. Mi sbagliavo. Se un movimento singolare aveva condotto all'inversione, e questo in tutte le classi, gli esseri che, come Saint-Louis, più ne erano lontani, un movimento opposto aveva staccato da quelle pratiche coloro in cui esse erano più abituali. In alcuni il cambiamento si era operato per tardivi scrupoli religiosi, per l'emozione provata quando erano scoppiati certi scandali o per il timore di malattie inesistenti, a cui gli avevano fatti credere in tutta sincerità parenti che erano spesso portinai o camerieri, senza sincerità amanti gelosi, i quali avevano creduto così di tenersi tutto per sé un giovane che avevano invece staccato da sé come dagli altri. A nessun prezzo, così, l'ex Lift di Balbec avrebbe più accettato proposte che gli sembravano ora non meno gravi di quelle del nemico. Quanto a Morel, il suo rifiuto nei confronti di tutti, cosa su cui Charlieu aveva detto a sua insaputa una verità che giustificava le sue illusioni e insieme distruggeva le sue speranze, derivava dal fatto che 2 anni dopo aver lasciato il barone si era innamorato di una donna con la quale viveva e che, avendo più volontà di lui, aveva saputo imporgli una fedeltà assoluta. E così Morel, che ai tempi in cui il signor di Charlieu gli dava tanto denaro aveva concesso per 50 franchi una notte al principe di Guermantes, non avrebbe accettato alcunché né da lui né da nessun altro, nemmeno se di franchi gliene avessero offerti 50.000. In mancanza d'onore e di disinteresse, la moglie gli aveva inculcato un certo rispetto umano, che non disdegnava di spingersi sino alla bravata e all'ostentazione, che tutto il denaro del mondo lo lasciava indifferente se gli veniva offerto a certe condizioni. Così il gioco delle diverse leggi psicologiche si ingegna a compensare, nella fioritura della specie umana, tutto ciò che, in un senso o nell'altro, provocherebbe, con la pletora o con la rarefazione, il suo annientamento. Lo stesso avviene per i fiori, dove una stessa saggezza, messa in evidenza da Darwin, regola i modi di fecondazione, opponendoli via via gli uni agli altri. "È d'altronde una cosa strana", aggiunse il signor di Charlieu con la vocina stridula che prendeva a tratti. "Sento persone che sembrano felicissime durante l'intera giornata, che gustano degli ottimi cocktails, dichiarare che non ce la faranno ad arrivare alla fine della guerra, che il loro cuore non ne avrà la forza, che non riescono a pensare ad altro, che moriranno di colpo. E l'incredibile è che in effetti succede. È davvero curioso. Che sia una questione di alimentazione, perché non ingeriscono più che cose mal preparate, oppure perché per dimostrare il loro zelo si imbarcano in imprese vane, ma che distruggono il regime che li conservava, comunque sia. registra un numero sbalorditivo di queste strane morti premature, premature almeno per i gusti del defunto. Ma non ricordo cosa vi stavo dicendo. Ah sì, che Norpois ammira questa guerra. Ma che modo singolare di parlarne. Prima di tutto, avete notato quel pullulare di espressioni nuove che, quando, a forza ad usarle tutti i giorni, perché Norpois è veramente infaticabile, credo che sia stata la morte di mia zia Villeparisis a dargli una seconda giovinezza. Si sono logorate, vengono immediatamente sostituite da altri luoghi comuni. Una volta, ricordo, vi divertivate ad annotare le frasi fatte che apparivano, duravano, poi sparivano. Chi semina vento raccoglie tempesta. I cani abbaiano, la carovana passa. Fatemi buona politica e vi farò buona finanza, diceva il barone Lui. Sono sintomi che non è il caso di prendere sul tragico, ma che conviene prendere sul serio. Lavorare per il re di Prussia, questa d'altronde è resuscitata, come era inevitabile. Ebbene, quante ne ho viste morire, ahimè. Dopo da allora abbiamo avuto la carta straccia, gli imperi predatori, la famosa Kultur, che consiste nell'assassinare donne e bambini indifesi. La vittoria, come dicono i giapponesi, è di chi sa soffrire un quarto d'ora di più. Il germano Turingi, la barbarie scientifica, se vogliamo vincere la guerra, per usare l'incisiva espressione di Lloyd George, insomma, non si contano più. E il mordente delle truppe, e il fegato delle truppe. Persino la sintassi del valente Norpois subisce, per via della guerra, un'alterazione non meno profonda della fabbricazione del pane o della rapidità dei trasporti. Avete notato che il valentuomo, tenendo a proclamare i propri desideri come una verità sul punto di realizzarsi, non ha tuttavia il coraggio d'usare il futuro puro e semplice, che rischierebbe d'essere contraddetto dagli eventi, ma ha adottato, per indicare quel tempo, il verbo sapere. Confessai al signor di Charlieu che non capivo bene cosa volesse dire. Devo annotare, a questo punto, che il duca di Guermantes non condivideva assolutamente il pessimismo del fratello. In più, era tanto anglofilo quanto il signor di Charlieu era anglofobo. Infine, considerava Caillaux un traditore che meritava mille fucilazioni. Quando suo fratello gli chiedeva le prove di tale tradimento, il signor di Guermantes rispondeva che se si dovessero condannare solo le persone che sottoscrivono un documento in cui dichiarano «ho tradito», il reato di tradimento non verrebbe mai punito. Ma, per il caso che non avessi più occasione di tornarci, annoterò anche che 2 anni dopo il signor di Guermantes, animato dal più puro anticaiotismo, incontrò un addetto militare inglese e sua moglie, coppia assai colta, con la quale fece amicizia come ai tempi dell'affare Dreyfus con le 3 signore affascinanti, e sin dal primo giorno, parlando di Caillaux, di cui riteneva certa la condanna e patente il crimine, udì con stupefazione la coppia colta e affascinante affermare: «Probabilmente lo assolveranno, non c'è assolutamente niente contro di lui». Il signor di Guermantes cercò di far valere il fatto che il signor di Norpois, nella sua deposizione, guardando l'affranto Caillaux, aveva detto: «Voi siete il Giolitti della Francia, sì, signor Caillaux, siete il Giolitti della Francia». Ma la coppia colta e affascinante aveva sorriso, messo in burla Norpois, citato prove del suo rimbambimento e concluso che probabilmente egli aveva detto quella frase davanti all'affranto Caillaux, secondo il Figaro, ma in realtà davanti a un beffardo Caillaux. Le opinioni del duca di Guermantes non avevano tardato a mutare. Attribuire tale mutamento all'influsso di un inglese non è così stravagante come sarebbe potuto sembrare se lo si fosse profetizzato anche solo nel 1919, quando gli inglesi chiamavano i tedeschi sempre e soltanto gli Unni e invocavano una feroce condanna dei colpevoli. Anche la loro opinione era mutata, e ogni decisione che potesse deprimere la Francia e soccorrere la Germania incontrava la loro approvazione. per tornare al signor di Charlieu. Ma come no? Rispose quando gli confessai che non capivo. Come no? Sapere, negli articoli di Norpois, indica il futuro, cioè i desideri di Norpois e d'altronde di tutti noi, aggiunse con forse non completa sincerità. Capite bene che se sapere non indicasse ormai semplicemente il futuro, a rigore si potrebbe anche concepire che il soggetto del verbo fosse una nazione. Per esempio, ogni volta che Norpois dice «L'America non saprebbe restare indifferente a queste violazioni ripetute della legalità. La monarchia bicipite non saprebbe non essere indotta a resipiscenza». È chiaro che frasi siffatte esprimono i desideri di Norpois, e miei e vostri, ma in fin dei conti il verbo può ancora conservare lì il suo vecchio senso, perché una nazione può sapere, l'America può sapere, persino la monarchia bicipite può sapere, a dispetto dell'eterna mancanza di psicologia. Ma nessun dubbio è più possibile quando Norpois scrive «Queste devastazioni sistematiche non saprebbero persuadere i neutrali. La regione dei laghi non saprebbe non cadere a breve termine nelle mani degli alleati. I risultati di queste elezioni neutraliste non saprebbero riflettere l'opinione della grande maggioranza del paese». Ora, è un fatto che quelle devastazioni, quelle regioni, quei risultati elettorali sono cose inanimate che non possono sapere. Con questa formula, Norpois rivolge semplicemente ai neutrali l'ingiunzione, cui sono desolato di constatare che essi non sembrano voler obbedire, di uscire dalla neutralità, o alle regioni dei laghi di non appartenere più ai crocchi. Il signor di Charlieu metteva, nel pronunciare la parola crocchi, lo stesso genere d'ardimento che metteva un tempo nel parlare sul tram di Balbec degli uomini i cui gusti non si indirizzano alle donne.